che cresca questa sigaretta. Tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, ci danno tempo ancora, il tempo di una sigaretta. Detto no, guardaci